Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rapper every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. Io te l'avevo detto. Ah, bella, eh? Allora, che c'è successo a noi, guarda. 26 novembre, 15.05, bentornato, bentornate, bentornati a... Io te l'avevo detto! Benissimo, benissimo. Direttamente da Via dei Volsci, come al solito. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Da Via dei Volsci indubbissimamente, ma molto di più da Piazzale della Repubblica, dove c'è insomma il concentramento, esatto, della bellissima manifestazione di oggi, di non una di meno, e non solo, insomma un po' tutte tante sigle di oggi che si sono unite, e andremo a parlare, insomma a sentire, più che altro, più che parlare, sentire le voci, esatto, della piazza. Vabbè, scusate, sono partito proprio così in quarta, mamma sì, no, mia, cioè, non no, è da me. È vero, è ripartito meglio prima della data. Non ho cazzonato per niente proprio, cioè, ma che cos'è sta cosa, mamma mia. Vabbè, ok, è vero, è vero, è vero, ok, ok. Va bene, quindi... è così. Buonasera, buonasera. Io te l'avevo detto. È così, è iniziato così questa giornata. Quindi con questi coffi tentativi che... 26 novembre. Che andranno avanti. Che andranno sicuro avanti il meno possibile. Il meno, speriamo, possibile, perché comunque... Noi ce la metteremo tutta. In realtà, insomma, in realtà ci proveremo, ma non assicuriamo la riuscita in nessun modo. Cioè, non è che mettiamo le mani avanti. Sei mani avanti. Dai, di che stiamo a parlare, insomma, fa abbastanza ridere che stiamo... diciamolo, no? Che Radio Onda Rossa ci dà la possibilità di sta qua. Che coraggio che c'ha questa radio. Infatti è per questo, è per questo, insomma, che visto che la radio da paura va supportata, e lo sapete tutti quanti, tutte quante, e tutto quanto è importante sostenerla, quindi dagli forti. Noi stiamo qua, diremo un po' di cose che sono successe durante l'arco della settimana. Nel frattempo, come diceva Giacomo, daremo voce a chi sta in piazza, soprattutto, esatto, leggeremo qualche comunicato, faremo leggere qualche comunicato a qualche compagna che ci chiamerà, non solo Roma, non solo da Roma, certo, assolutamente. Una densa giornata di revuelta, insomma. Sicuramente è impossibile, come è stato impossibile d'altronde durante tutta l'altra settimana, ma come quasi tutto quanto l'anno, non parlate di questa roba qua. Esatto. Ma infatti veniamo da una settimana, insomma, in cui si parla di tre prostitute, dicono così, no? Lo chiamano così, tre prostitute uccise da questo serial killer, quando si è tratto appunto di... come si è detto anche qua in radio, di femminicidio, e soprattutto si tratta di lavoratrici che insomma vengono come al solito buttate lì in mezzo a quella roba là. Esatto, di uccise perché donne, questo va detto. Esatto. Quindi soprattutto in un ambito, insomma, che lascia un chiaro scuro che non si può né sentire né vedere, quindi andiamo a sentire la prima canzone della giornata. Esatto. Lo facciamo così. Però secondo me, prima di mettere la canzone, vai, dovremmo assolvere a un dubbio atavico che sta proprio turbando le menti di tutti quelli che ci ascoltano. Tremo, ma vai. Cioè, il dubbio è... Però hai spezzato il ritmo, te lo dico. Ma certo, c'era del verbo. Questa è una cosa che tecnicamente si chiama un intervento anticlimax. Capito? Sì. Tu vai a rompere il climax della situazione. E cioè, tutte e tutti si staranno chiedendo: ma che questo? Cosa diranno questi? di che cosa parleranno? O meglio, su cosa alzeranno la loro solita stupidissima. In realtà lo abbiamo blanda appena detto. Cosa faremo noi? Cosa faremo? Sì.

sempre Onda Rossa, sempre 87.9, quindi questi erano gli Assalti Frontali. E giustamente Giacomo, delicatissimo, sempre mi faceva notare che niente di rilevante. No, mi faceva notare che mi sono impastato un pochino prima abbiamo lanciato la canzone, che effettivamente è vero, perché sto raffreddatissimo, però, e insomma, non lo avevamo notato questo, no, diciamo, nella musica, no? E oggi abbiamo scaricato una sbragata dei pezzi, tutti quanti selezionati con voci di donna, e insomma, cioè, questo qua invece è l'unico pezzo che c'era venuto in mente di passare, perché dice un artista uomo che fa un pezzo di donna, esatto, cioè nel senso ci siamo anche interrogati, e va a toccare uno dei temi, esatto, per dire, della questione. Noi per dire c'eravamo in previsione di fare un pezzo che sì, parlava attraverso un attraverso appunto le nostre voci, il punto di vista di una donna addirittura contro il carcere, era quindi una cosa, un progetto che era fatto, no? Che era direzionato a quella parte lì. Però poi in generale magari invece ci sono tantissimi uomini che cantano canzoni scritte da donne, e quindi molto spesso neanche lo sai che tu stai cantando una canzone che magari ha scritto, cioè che l'autrice magari è una donna, però l'interprete è un uomo, no? Nel senso, pure questo qua. E questa qua, per dire, fa sempre parte delle enormi difficoltà, appunto, che incontriamo noi a parlare di questa roba qua. Cioè, anche in una cosa dove magari uno si sente molto a suo agio, tipo la musica. E infatti, perché poi più ne parli, esatto, e più ci rifletti, e più ti rendi conto che stai zitto. Esatto. Sì. Quindi dici: ma come faccio io? E allora è pure questo il bello, no? Perché continuamente tu comunque c'hai gli spunti, no? Nel senso, per metterti in discussione, e comunque, cioè, nel senso, continua esatto, il percorso politico, perché è un percorso politico quello che ogni maschietto deve fare, no? E allora ti interroghi: come famo noi a fare questo percorso politico? E soprattutto politico? Forse è ora che quel maschietto faccia un'analisi, no? Esatto. Comincia a fare un'analisi, che si ponga delle domande. Dato per, no, buono che è giusto iniziare a fare l'analisi, anzi avremmo dovuto un percorso pure. Avremmo dovuto iniziare non già da un po'. Non solo parole, non solo, che siano pure, no, fatti. Esatto, quindi come? Ecco, come lo creiamo? Che è quello che ci siamo questi noi questa, comunque, settimana, leggo in questa settimana di confronto. Nei nostri occhi, infatti, lo stesso imbarazzo lo che avevano il ieri terrore sera, che c'avevano ieri sera a Propaganda, che parlavano del Bubacar. Lo stesso identico. Il problema sei tu terrore. Che vedi queste cose. Il problema sei tu che vero, guardi queste. Ma no, però tu l'hai fatto per dovere di cronaca, perché sei un redattore di una radio, e quindi giustamente tu ti informi. Bravo! Però il discorso è che è vero, abbiamo una grossa difficoltà noi, è vero, cioè è inutile, non ce lo neghiamo, anche e soprattutto noi che siamo quelli, insomma, che ci vantiamo, ecco, di venire da un'analisi, da un percorso politico, da delle esperienze che comunque avrebbero dovuto formarci in questo senso, invece si rivelano mancanti, cioè a noi mancano dei pezzi, è chiaro, è evidente, a no, noi non è maschi chiaro, cioè non è solo chiaro, evidente, ma è proprio naturale, la palissiana, naturale che sia così, è naturale, insomma, perché è naturale, direi che facciamo parte del problema e continueremo a far parte del, bravo, problema, bravo. Ma questo l'ho capito nel, quindi, senso, quando sì, vai, questo è quello che quando è, tu giustamente, sì, dici: io da maschio non riesco a, come dire, a rapportarmi a questa mia condizione maschile, e quindi che faccio? Chiedo come ci si rapporta, e giustamente le compagne ti dicono: ma scusa, ma mica te lo devo trovare io il modo di affrontare, esatto, questo tema. È ora sei che tu, caro maschio, come poter fare, ma questo sarebbe un ulteriore carico, cioè chiedere a loro la soluzione, ma te pare? Che ci stiamo, e infatti noi facendo, quando ci approcciamo a queste cose, perché ora che, insomma, che ci poniamo delle domande. Molto bene. Quali domande, certo, dobbiamo porci? La violenza maschile è un predominio dato. È un dato maschile, direi, in questa società, perché io parlo proprio, secondo me, è un predominio quello, no? È un predominio esercitato con la violenza. E la violenza culturale, sociale, no? Come si combatte la violenza maschile? Cioè, noi maschi come possiamo intervenire nella nostra stessa mancanza? Ma in realtà, cioè, nel senso è tipo un integrale in tutte quante le lotte, perché quando, cioè, questa roba qui del transfemminismo è già per natura, di nuovo, è dentro ogni singola lotta in giro per il mondo. Poi ce ne sono sicuramente alcune che ne hanno molto più bisogno, però cioè, è normale che quella, cioè, che riguarda veramente non solamente le donne, non solamente le minoranze comprese nei vari più oppure nelle varie sigle, insomma è una roba proprio che va di pari passo con tante altre tipi di lotte, a mio avviso, perlomeno, cioè, nel senso, io quando mi interrogo su questi argomenti qua, anche parlando con le compagne, cioè nel senso, mi viene da mettere non in discussione, però nel senso sono discorsi che approfondiscono tante altre sfaccettature in tutte quante le lotte, quindi nel senso è semplicemente continua a lottare. E poi appunto, come un suggerimento che evidentemente ci danno da un sacco di anni le compagne, è proprio quello di auto-organizzate, quindi fai te, no? Esatto. E inizi a fare, soprattutto, certo, questa è la cosa importante, quindi promuovi, inizi cortei, attività politiche, comunque per un modello di credo, in sostanza di un uomo diverso, possiamo definirlo. Esatto, quello insomma che si può notare da quello che stiamo dicendo è che noi da maschi ci interroghiamo sulla nostra condizione perché riconosciamo in noi stessi una certa diversità, perché giustamente anche ascoltando il contributo che passava qualche ora fa in radio, si parlava appunto di come non tutti i maschi vivano, cioè ci siano alcuni maschi che vivono con grosso disagio questa condizione patriarcale, cioè ci si vive, ci sono maschi, ecco, vicini alle istanze femministe, o comunque maschi che vivono contesti politici dove il femminismo è presente, che vivono con disagio questa predominanza del patriarcato sulla politica, sulla vita in generale e sulle cose della vita. Come possiamo appunto noi, che ci sentiamo a disagio in questa società, a smuovere le acque e di fatto a cambiare, a parlare con i nostri simili, con i maschi simili a noi, simili ma distanti, che esercitano violenza sulle donne o che vivono un sistema, o che introiettano e anche portano fuori da sé un sistema completamente patriarcale e chiuso in se stesso. Come facciamo noi? Cioè, questo è il senso. Innanzitutto io penso dove andiamo a sbattere? Innanzitutto iniziando mettendoci, no? Cercando di mettersi nei panni dell'altro o dell'altra. Cioè, complicato, questo è molto complicato. Molto effettivamente. Complicato, partendo da quello e dai piccoli gesti utili, cioè capirlo nel quotidiano, capire la difficoltà nel quotidiano. Cioè. Compagni, cioè cercando di no, però qua stiamo a parlare di come facciamo a livello politico, no? Cioè nel senso, non è come, esatto, cioè non è solamente come si tratta, cioè non è come nel quotidiano, sai te come fa. Esatto, cioè, però qua nel senso è interessante invece la compagneria, cioè perlomeno cioè quando le attività politiche, esatto, per la me promozione di... no? Nel senso cosa sarebbe interessante fare, forse è questo qua la domanda che ci dobbiamo fare, no? Scendere perché... in piazza contro la violenza, noi maschi scendere in piazza contro la violenza sulle donne, magari sarebbe pure ora. Beh, sarebbe ora, questo sicuramente è un credo, no? No, è una cosa che come sentivamo appunto dal contributo che passava stamattina, che ricordiamo del 2007, questo. E a parte i vari scherzi, parla pure insomma di una gestione anche sbagliata di una donna al potere, cosa può generare, ma in generale la critica all'universo diciamo maschile era quello proprio di non auto-organizzarsi, che questa qua insomma è una cosa appunto che dal 2007 che ribatte, quindi sicuramente gli spunti non sono mancati. Poi come in tutte quante le varie dinamiche di decostruzione da questo tipo di roba qua, è inutile far finta che sia una passeggiata, no? Pure per chiunque, insomma. No, esatto, anche perché quando si parla di potere, potere credo che sia una delle circostanze umane che intervenga più di tutte sulla parità di genere. Cioè il potere azzera perché una donna al potere non è assolutamente detto, abbiamo un esempio con Giorgia Meloni, non è assolutamente detto che rappresenti le istanze delle donne o le istanze femminili, o magari lo fa a suo modo, interpreta il femminismo nella sua sfaccettatura. Allora questa è un'altra domanda che ci facevamo: il femminismo è interclass, cioè è come dire è trasversale dal punto di vista ideologico? Cioè la borghesia, il capitale, il padronato può essere femminista? Se sì, come? Questo è il punto. Io, cioè, uno dei punti che mi interrogo, su cui mi interrogo io, che non sono donna e quindi da maschio davvero posso darmi poche risposte in questo senso, però vorrei sapere, mi piacerebbe sapere. Vabbè, comunque, questa, diciamo, appunto, è la prima parte in cui basta, poi dopo di questo ci tacciamo sull'argomento perché già abbiamo detto abbastanza. Basta una così, nel frattempo andiamo a sentire la canzone, vediamo se riusciamo a fare qualche collegamento. Sentiamo, sì. Dalla piazza, sì. E vediamo cosa succede anche dalla piazza, così. Ci arrivano bellissime foto, tra l'altro, dalla piazza. Intanto il concentramento, non so se è già partito il corteo, fateci sapere, insomma, chiamateci, fateci sapere se il corteo è già partito. Comunque arrivano bellissime foto, la piazza è bella, piena, gremita, colorata, insomma, striscioni e tante belle facce. Seems like no resolution. We are fighting these wars like those who came before us. Their message still loud and clear. The duty now on us. See, the prophets did speak it. Only love is the realest. As they crucified Jesus, Judas still singing his praises. As they slew us down, me pressed on the ground. As I beg for my life from you, and my brother lets me down. See, where do we go from here, man? When you insist on declaring war on man, like we won't take a stand. Feels like a revolution, but whose revolution? As we search for solutions, seems like no resolution. Yeah, they slew us down. They long for our crowns. The prospect of you and me together. Watch their walls tear down. They have tricked us with false freedoms as they force feed them into the collective. So we feel like there is more that we connect with. Like we need more in common than our hearts and our souls. I'm a sheep, but we're human. Sempre 87.9, sempre. Che guaio che siamo, che guaio. Sempre Onda Rossa, diamo la linea a una compagna, a una studentessa dalla piazza. Ciao, ci senti? Sì, vi sento. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Vai tu. Dici. Ok, siamo in piazza, ancora il corteo non è partito, si sta riempiendo a vista d'occhio. Fra pochi minuti il corteo partirà, sono arrivate la maggior parte delle città e dei nodi di Non Una di Meno, ancora i pullman si stanno svuotando, il corteo fra poco parte, siamo entusiaste, si è appena data una performance artistica di un collettivo artistico transfemminista palermitano e adesso partirà il corteo. Ok, ci vuoi raccontare un po' il clima sì, della piazza, perché abbiamo sentito che delle compagne, insomma, avevano avuto delle storie per un manifesto. Un striscione. Il clima è sicuramente fucsia, è molto animato e glitterato. In generale si sono creati dei problemi perché il corteo, insomma, transfemminista di Non Una di Meno è stato costruito durante tutto il percorso che è arrivato fino ad oggi come un corteo senza sigle partitiche o di appartenenze politiche di struttura, e ci sono stati, insomma, degli episodi in cui questa cosa non è stata rispettata ed è stato fatto notare questo problema, e adesso è tutto rientrato per adesso. Ok, perfetto, va bene, grazie. Noi chiamaci quando vuoi, ci sentiamo, noi siamo qui a disposizione. Magari ci sentiamo se per te va bene, fra un pochino, insomma, così. Perfetto, ci aggiorni. Va bene. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao. shepherd. I'm lost and I'm wondering, trying to decipher what Lord this is. Is it rhythm? Oh, oh, oh, oh. Nah, this shit is so imbalanced. Feels like a revolution, but whose revolution? As we search for solutions, seems like no resolution. Feels like a revolution, but whose revolution? As we search for solutions. Sempre 87 e 9, sempre onda rossa. E parlando di goffaggine, parlando di goffaggine, questa è, io te l'avevo detto, 06 49 17 50, per intervenire in generale. Oggi niente hotline. Oggi, no, niente hotline, oggi niente hotline e niente, quindi noi, noi stiamo qua appunto e Che facciamo? E ci interroghiamo, ci interroghiamo sulla nostra, proprio sulla questione maschile, che schifo. Cioè, io è davvero, basta. Questa è la mia riflessione di oggi su tutto. Che schifo. Sì, no, è vero, perché comunque ce lo siamo detti. Ragazzi, c'è da ride su quanto siamo indietro, davvero. È meglio che io, ci stiamo zitti. Sì, sì, sì, è veramente ridicolo. Anche, dunque, come dicevamo, la prima cosa che abbiamo detto è che questa radio ci sta dando la possibilità a noi maschi implicitamente di fare un percorso politico, come dicevamo prima, Simone. C'è un percorso che comunque sarebbe dovuto iniziare già da tempo, che però evidentemente non è ancora nemmeno agli albori. Noi ci proviamo, noi tentiamo di fare una riflessione e tentiamo anche di interrogarci, oltre a farci un po' di risate su fare della semplice e della facile ironia, insomma, sulla nostra condizione. Però insomma ci interroghiamo. E nei fatti, che cosa nel quotidiano, quindi nei luoghi che attraversiamo, nei luoghi di lavoro, nelle situazioni che viviamo, come possiamo influenzare la società in questo senso nel quotidiano? Da dove possiamo partire? Giustamente Simone prima parlava intanto di fare un po' di introspezione prima di iniziare a cercare di capire, di avvicinarsi. Però anche qui notiamo che noi abbiamo una grossa difficoltà a fare questo, perché noi comunque sia non siamo donne, comunque sia noi, anche qualora provassimo a introspettare delle difficoltà, noi comunque rimaniamo dei privilegiati maschi, bianchi, occidentali, eterosessuali, che vivono una condizione di predominio imposto da millenni. Di conseguenza il lavoro da fare è molto difficile, credo che sia anche molto lungo, cioè, ma indubbiamente. E quindi quali sono i luoghi dove si fa questo lavoro? Certo, gli spazi di socialità, i luoghi di politica, i luoghi della cultura. Quindi in ogni ambito che viviamo dobbiamo cercare di influenzare nel pratico, nel quotidiano. Ad esempio sul lavoro noi dobbiamo intervenire, non dobbiamo tacere, non dobbiamo avere paura di intervenire, di gridare quando vediamo e sentiamo qualcosa che pesa sulle nostre coscienze da questo punto di vista. Nell'arte, dato che noi siamo musicisti, ci piace l'arte, abbiamo il dovere di costruire arte che smuova questo tipo di coscienze. Ecco, io credo che il percorso sia molto più semplice da dire che da fare, chiaramente, però da qualche parte si deve iniziare, no? Sì, vabbè, certo, poi insomma è una cosa che fino adesso è stata molto in caso, poi ai posteri, anzi alle postere l'ardo sentenza. Alle poste alle poste, cioè nel senso troppo individuale, no? Come collettività, come movimento, forse sì, ci vorrebbe un po' più di presa collettiva da parte appunto della parte maschile. Quindi andiamo a sentire una canzone che hanno fatto delle logiche su Nuna Menos, e nel frattempo rispondiamo al telefono. Neurologici. Sono una di meno, basta, ni una menos, ne una menos, sono una di meno, basta, ni una menos, ne una menos, sono una di meno, basta. Digo não, não vamos mais ser estatística. Em marcha nosso grito voa alto, multiplica. Somos todas filhas das histórias verídicas. Caminhando passo a passo, estamos mais convictas. De que nada vale disputar nessa hipocrisia. Foco na missão, na união e fortificar. A nossa dor e choro já bastou de ser notícia das nossas demandas barradas na política. E uma menos, tem uma menos, sono nada de menos, basta.

geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada. Il mattino rizoma, bussa alla città di vetro, sorride stanca, la porta glaciale incanta, scarceranda carovana migra, è l'ora d'aria, spalancate l'orizzonte, il suono del vento curva è fermo su uno spazio-tempo. E quindi ci andiamo a risentire invece da capo dopo lo spottino di Scarceranda, che potete trovare sul sito www.ondarossa.info. C'è tutta una sezione dedicata apposta anche per le spedizioni, perché da qualche anno le spediamo. Andiamo, esatto, a Matteo vi dà un bacino sulla Scarceranda con Rossetto e ve la mandiamo. Sì, e ci andiamo a risentire la canzone dei Neurologici. Neurologici. Da filha das histórias verídicas, caminhando passo a passo, estamos mais convictas de que nada vale disputar nessa hipocrisia. Foco na missão, na união e fortificar a nossa dor e choro. Já bastou de ser notícia das nossas demandas barradas na política. E uma menos, tem uma menos, sono nada menos, basta. E uma menos, tem uma menos, sono nada menos, basta. Ni una menos, ninguna menos, no, no, nadie menos, basta. Ni una menos, ninguna menos, no, no, nadie menos. Dubwise. Una menos, ninguna menos, son una di menos, basta. E questi, diciamo, sono i Neurologici, che fanno appunto la versione, yes, che fanno paura, questo che fanno paura, sì, fanno la versione di dub del pezzo, che ci hanno anche regalato due dischi a Renoiz quando ci siamo incontrati, da in sottoscrizione da radio, anzi era parentesi, uno era da radio, quindi gli dobbiamo pure dare due scudi, quindi big up per i Neurologici, che grandi, che grandi. 6879 sempre Onda Rossa, dagli porte, andiamo avanti sempre via dei Volsci, 0649 17 50, se volete chiamare fa nello specifico di oggi, per fare rumore, per fare collegamenti dalla piazza. Ah, okay. E c'è pure il gruppo, ricordiamo il gruppo Telegram. Allora che... questa cosa va detta, sì, va dritto verso i 51, esatto, come obiettivo. Esatto, noi abbiamo questo obiettivo per far incazzare il ministro degli interni. Basta, tutti sti cazzi. Ah, tu dici per far arrabbiare, sì, il ministro degli interni. Grazie. È tutto il governo Meloni, in realtà. Dobbiamo arrivare almeno a 51 membri del nostro gruppo Telegram, io te l'avevo detto. Quindi, se per non poi, avete, se per non poi fare un flash mob. Esatto, per poi, fare, per poi farci chiudere il gruppo dalle autorità. Cioè, proprio giusto per creargli un po' di lavoro. Sì, dato che non, sì, fanno niente. Sì. Allora dice: 51, siamo 51, adesso siamo 21. 21. Ce ne mancano 30. 30. Come il 30 per 51 mille. Faremo un'iniziativa. Come il 30 magari, per mille, so, della radio ne mancano. Che siamo, solo 1000? Namo, no, non siamo solo 1000, non siamo neanche solo 50. Il rape però card. Cercate il gruppo Telegram, io te l'avevo detto. Oggi possiamo diventare 51 e fare la storia. Che la c'è, storia. C'è da, cioè, nel senso, per sta farvi crescendo notevolmente. Vi perdete piano piano. Vi perdete discussioni del tipo: che fine farà adesso Suor Cristina, la famosa, è quello il core business della nostra... esatto, la nuova icona pop italiana. Oh, cioè, allora partiamo da un presupposto: mi state perdendo questa roba qua, esatto, cara Suor Cristina, noi siamo contenti per te, sì, perché liberarti dal gioco ecclesiastico e monacale sempre cosa buona e giusta, è una cosa che a noi ci piace, buona e giusta, quindi come benvenga, dite, come dite voi, esatto, benvenga la libertà dal vestito monacale. Dopodiché, comunque, secondo me io noto una somiglianza. Non ci piace come canta. No, no, io noto una somiglianza spaventosa. Con chi? Con Cristina D'Avena, raga. Cioè, aspetta, nel senso, secondo me, è tutta una grande lupa. Ma perché stai bestemmiando adesso? Si può bestemmiare in radio. Secondo me, esatto, è una grande, è tutta. Cioè, si può bestemmiare in radio, quindi. Suor Cristina, in realtà è Cristina D'Avena. Jack, no, raga. Noi non te volevamo dire così. Allora, sì, non mi dovete creare. Quando dice un bambino del Babbo Natale, capito? Ha fatto la stessa espressione. Non mi dovete creare a me queste cose mi mettono in, capito? Vabbè, perché io Cristina D'Avena ci sono legato da un punto di vista proprio emotivo. Dai, perché da come... bimbo. Invece Suor Cristina, ah, non mi piace. Raffaella Carrà, Raffaella Carrà no. Invece Cristina D'Avena sì. Sì. Allora, perché? Io mo ce muovo una perché? Critica proprio oggi. Guarda quanto sono proprio quanto sono cattivo. Raffaella Carrà non mi piace. Vabbè, Giacomo, questo non interessa veramente a nessuno. Esatto. Per tenermi al sicuro dalle critiche dico Raffaella Carrà non mi piace a me. E allora? E basta. Perché mi piace non te. Mi piace perché? Non ve lo dico. Però se pensavamo di passare Cristina D'Avena, io dico, non dice solo, che sono della mozione del banana. Ma dove sarà? Su Raffaella Carrà. Sono della mozione del banana. Chi conosce la mozione del banana? Ti senti solo la musica reggae, tu già. Sì, perché io sono limitato e anche limitante. Senti, cioè, chi mi sta che vicino? Dico. Senti, te. Ha messo Raffaella Carrà? No. Dopo la metto. Somehow I made it through. How lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been had, I was sad and blue. But you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin, hey, a touch for the very first time. Like a virgin. When your heart beats next to mine, gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, cause only love can last. You're so fine and you're mine. Make me strong, yeah, you make me bold. Cause your love turned out, yeah, your love turned out. A touch for the very first time. Like a virgin. With your heartbeat next to mine. Whoa. You're so fine and you're mine. I'll be yours till the end of time. Cause you made me feel, yeah, you made me feel. I've nothing to hide. Like a virgin, hey, a touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beat next to mine. Like a virgin, ooh, ooh, like a virgin. It feels so good inside when you hold me and your heart beats and you love me. Pedra Magoni, boh, da paura. A me mi piace un botto. Senti, c'è una voce pazzesca. Voce a contrabbasso. Secondo me, atmosfera veramente molto, molto figa. Sempre 87,9, sempre Onda Rossa, 15,47. E aspettiamo altre corrispondenze dai cortei. Nel frattempo, appunto, come ci dicevano, il corteo è partito. E niente. Che altro di? Ci andiamo a sentire subito I Puffi. No, lo spottino del 31 dicembre. Sì. Sotto le Bibbia. I muri, per esempio, i muri, come li farebbe lei? Il 31 dicembre torna al Pratone di Rebibbia. Ma a fare che? Andiamo a spezzare la solitudine delle persone recluse. Scusa, ma tutti gli anni dobbiamo fare sta cosa? A parte che sì, perché il carcere sta ancora là. E poi mai come quest'anno abbiamo bisogno di tutto. Perché va sempre peggio. Sciopero della fame in 41 bis, rivolte sedate nel sangue, repressione e manganellate in piazza, femminicidi, sfratti. Devo continuare? No, vabbè, se la metti così andiamo tutto. Beh sì, mi raccomando, solo in gruppi da 50, non uno in più. Il 31 dicembre, dalle ore 10, presidio solidale e lenticchiata. Via Raffaele Maietti, angolo via Bartolo Longo. Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Dunque, come lo facciamo questo carcere? Come? I muri, per esempio, i muri, come li farebbe lei? Il 31 dicembre torna. Ci piace ribadire. Noi, sì, vabbè, noi, noi siamo ripetitivi. Sotto consiglio, devo dire che mi piaceva che pure. Bello, avevamo già passato per il contributo la settimana scorsa, quello di Totò. Insomma, che sì. Abbastanza. Con le sbarre di gomma. Sì, che, basta. Perché poi effettivamente quanto. E i muri bassi. Esatto. Quanto è tosto, poi, insomma, ogni volta. Cioè, nel senso. Ci stiamo rendendo conto che è sempre più difficile comunque preparare le trasmissioni su quello che succede il sabato, quindi insomma già noi siamo anche resi conto la settimana scorsa insomma del è il famoso passo più lungo della gamba, sì, cari sì, compagni, vabbè, ma come si diceva, noi abbiamo bisogno di questi fallimenti, cari compagni, e a noi ci serve. Oddio. Proprio no, vabbè, sto scherzando, a parte tutto è bello seguire l'attualità, però è difficile. È molto sì, difficile certo. Seguire le piazze è interessante, anche utile, soprattutto utile sì. A chi ci ascolta, però per noi che siamo notoriamente tre personaggi ambigui è difficile perché bisogna stare sul pezzo, e a noi stare sul pezzo ci fa fatica, è un pochettino, no, non è vero, dai, cerchiamo di impegnarci in realtà, però ecco, come oggi, le giornate come oggi sono particolarmente pregne di significato e noi siamo felici di essere qua. Insomma. Ah, voglia, certo. E anche perché, insomma, non staremmo in radio. Altrimenti. Esatto. Senti, ma che dici se andiamo a sentire un po' che si dice. Ah, è vero, abbiamo anche altre corrispondenze dalla mia terra. Dal di fuori. Terra. E quindi, sì, sicuramente poi andiamo a sentire un'altra canzone che ci ha consigliato il segretario occulto. E nel frattempo facciamo pure il collegamento. Comunque non c'è collegamento senza disagio qua, io te l'avevo detto. Esatto, sì. Però insomma, però invece interrompiamo di nuovo la canzone. Esatto, sì, esatto, interrompiamo la canzone perché abbiamo un collegamento direttamente da Teramo, insomma. Ciao. Ciao, ciao a tutti e a tutto. Ciao. Ciao. Grazie per lo spazio di nuovo.

che si chiama Campetto Occupato, che conosciamo bene. Esatto, che da anni resiste dal basso, spinge, e che noi sosteniamo veramente con tutte le nostre forze, e che la repressione politica tutti i giorni non fa altro che appunto tentare di soffocare. Questo è un altro discorso enorme che abbiamo tentato di affrontare, che insomma ripetutamente cerchiamo di affrontare, perché insomma questo problema della repressione è così sproporzionata ed enorme nei confronti di questi movimenti, di queste realtà, è un dato che ormai è sotto gli occhi di tutti. Sì, è una sproporzione, insomma. È una delle costanti proprio che accompagna anche le nostre trasmissioni ormai da un bel pezzo. Ma la matrice è la stessa, patriarcato è sempre quella, è sempre una delle tante espressioni di violenza, dalle donne agli spazi sociali, è sempre la solita mano, è sempre una la matrice, questo che si intersera, come dicevate anche voi prima, a tutti i livelli. Certo, infatti è sicuramente un ottimo modo, insomma, per come dire, unire le lotte per e anche per insomma rafforzarle in molti casi, a mio avviso. Quindi sicuramente c'è tanta strada da fare, però insomma ne vale la pena, ecco, questo è quello che mi sento da dire. Quindi esatto, veramente grazie mille per un'ultima cosa, sì. Scusami che davvero certo. Tipo momento saluto, ma non è così. A proposito di unire le lotte, ci tenevamo sempre a ringraziare anche il collettivo Fuori Genere dell'Aquila, che è sempre al nostro fianco, ci sostiene, e che quest'anno con Casematte insomma hanno festeggiato 10 anni di occupazione, e con cui ci piace confrontarci, perché uniti veramente possiamo fare la differenza. Ecco, soltanto l'ultima cosa, grazie mille. Dai, grazie, figurati, grazie a te. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Un abbraccio. Ciao. E quindi di nuovo, insomma, ringraziamo la compagna che insomma ci ha dato un ulteriore aggiornamento, e ci andiamo a sentire invece un altro spottino inerente alla manifestazione, visto che non se ne parla mai abbastanza del primo dicembre. Cazzo di tutto. Il primo dicembre si svolgerà al Tribunale di Sorveglianza di Roma il riesame sull'applicazione del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito. Alfredo, compagno anarchico, si trova nel carcere di Bancali, in Sardegna. Dal 5 maggio è sottoposto a questo regime detentivo di tortura. Il 20 ottobre ha intrapreso uno sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Nel frattempo, Panzo Roce, Ivana Rocco e Anna Beniamino, prigionieri in altre carceri, si sono uniti allo sciopero. È passato più di un mese ed è sempre più importante e urgente sostenere questi compagni che mettono in gioco la loro vita contro la brutalità dello Stato. La tortura con cui si vuole annichilire la resistenza di Alfredo è oggi un monito contro chiunque vuole alzare la testa. Per questo, la lotta portata avanti da questi compagni e compagne riguarda tutti e tutte noi. Fermare questa spirale repressiva è la nostra volontà. La loro lotta è la nostra lotta. Contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, fuori Alfredo dal 41 bis. Giovedì 1 dicembre alle ore 9:30, presidio al Tribunale di Sorveglianza in via Triboniano 5, nei pressi di piazza Cavour. Quindi sempre 87.9, sempre Onda Rossa, e riapriamo di nuovo i microfoni dalla piazza con una compagna, con una voce nota della radio, insomma, che per una corrispondenza. Ciao, ci senti? Sì, allora io vi sento poco, scusate, perché qua non è semplice, siamo veramente in un corteo strettissimo, veramente molto compresso,

si cade molto facilmente in appunto in degli errori, no? È molto facile cadere in degli errori, sarebbe molto facile, può essere molto facile, e sistematicamente infatti poi succede. A me personalmente ogni volta che penso che mi rapporto con che mi è successo di rapportarmi con le compagne, non naturalmente ai microfoni, ma in maniera proprio personale, privata, insomma, ogni convinzione che magari pensavo di aver raggiunto dopo non te dico anni, ma giorni di riflessione, insomma, viene sistematicamente smontata con molta facilità e soprattutto anche molta lucidità. Quindi sicuramente so percorsi che vanno fatti poco alla volta, in quanto maschi dobbiamo fare, quindi sicuramente poco alla volta direi anche di accelerare, insomma, vista l'emergenza e vista la condizione, insomma. Comunque, ci andiamo a sentire un'altra canzone e poi dopo magari sì, parliamo pure di un'altra cosa che un'altra cosetta, di un'altra cosetta, magari pure dei mondiali che sono stati scelti di farli in Qatar, insomma, che quali mondiali, scusa, che di calcio, che naturalmente, insomma, c'ha un significato niente male anche per la giornata di oggi. E vabbè, mondiali. Ci andiamo a sentire una canzone, questa sempre te l'avevo detto. Yes! E poi vi facciamo sentire anche della roba che ci arriva sempre dalla piazza. Yes! We had the privilege of working with her on the Chinatown Babylon record. Sister Erica Badu. Back up. This is live. See, 2, 3, 4. Weeping for the living, weeping for the dead, weep for one another, weep for happiness, weeping for the struggle, weeping for the rain, weeping for the children. We must take the blame. No. Watch this.

questo uno degli audio che ci stanno mandando le compagne dalla piazza, ve ne faccio sentire subito un altro, poi magari ci sentiamo una canzone e vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con... Allora, siamo qui con una compagna che ha che porta uno cartellone molto bello, scritto "Il femminismo è il contrario della solitudine", con tante firme di tante persone. Gli diamo tanto il senso di questo cartello, che per noi insomma è molto chiaro, e poi anche come legge la manifestazione di oggi. Anzitutto il cartello nasce dal fatto che non esiste una parola per esprimere il contrario della solitudine, ma attraverso il femminismo intersezionale mi sono resa conto che c'è una pratica per sentire il contrario della solitudine. Quindi, una volta fatto questo manifesto, ho voluto farlo firmare a tutte le compagne, sorelle, le persone alleate che sono scese in piazza con noi oggi. E il senso della manifestazione di oggi è forte e molto importante, perché le cose stanno precipitando non solo in Italia, ma in tutto il mondo e in tutto il sistema. E quindi riprenderci gli spazi pubblici è un atto politico fondamentale, ribadendo che i corpi sono nostri e li gestiamo noi. Da dove venite? Da dove vieni? Io da Genova. Genova, hai fatto un sacco di viaggi. Abbiamo fatto un sacco di strada, molte delle mie compagne del collettivo sono con me, poi abbiamo preso persone anche dalle Marche, dall'Abruzzo, da Roma. Come siamo andati? Si chiama Bordello. Grazie tante, per essere vero. Grazie infinite. Grazie. Quindi ringraziamo. Che belle le voci dalla ringraziamo piazza. Ringraziamo comunque. Che belle. Sì, le compagne della redazione che fanno un lavoro anche dalla piazza incredibile, quindi grazie. E molto interessante anche questa corrispondenza. Sì. E ricordiamo a chi è all'ascolto che allo 06 49 17 50 può chiamarci e anche intervenire dal corteo, se ci state sentendo. Fate Vobis, la radio è sempre aperta. Nel frattempo, come dicevamo prima, come diceva prima una compagna, qualche corrispondenza fa, insomma, un'altra delle cose che abbiamo dovuto sentire questa settimana sono sti 20.000 euro per le famiglie naturali, no? Cioè, nel senso, pure questa. Genitore 1. Sì, genitore 2. Esatto, in piena linea con genitore 1 e genitore 2, che è una cosa assurda. Quindi di nuovo, insomma, sono cose che si commentano da soli, nel senso, quanta ironia si potrebbe fare su una cosa del genere? No comment. Sì, nel senso... Sarebbe proprio... Vabbè, peccato che però, insomma, come in tutte quante le altre cose, su per giù che trattiamo, che abbiamo trattato anche in passato con un po' più di leggerezza, insomma, sono quasi sempre... E risate amare, cioè, nel senso, non sono mai cose assolutamente. No, nel senso, vabbè, di che stiamo a parlare? D'altronde la satira è fatta pure per questo. Fa tutto, quindi, parte. Di che stiamo a parlare? Una cosa. Un'altra cosa che magari abbiamo il tempo di farci due chiacchiere. Starta mezz'oretta che ci rimane, invece, è appunto. Anche il fatto che, appunto, come dicevamo prima, stanno facendo questi mondiali di calcio in Qatar. L'Italia non si è qualificata. Ancora questi mondiali. Sì, vabbè, nel senso, poi fa ridere che siamo noi tre che dobbiamo parlare. Cioè, ma te rendi conto? Dei mondiali, ancora di più che dei transfemminismo. Cioè, a mio avviso, perché, cioè, nel senso, è una cosa proprio quella del calcio che non ci interessa a nessuno dei tre. Al contrario, invece, magari delle lotte che ci interessano assai. Cioè, ma i mondiali al limite uno. Però comunque una delle guardava, capite, i mondiali, cioè, ma mo proprio, vabbè, cioè... infatti non parleremo dei mondiali, ma parleremo appunto di un'altra critica, di un altro aspetto che comunque a mio avviso fa pure un po' parte dei vari tentativi che ci hanno famosissimi, che insomma adottano un'azienda di pinkwashing, no? Nel senso, quella di tutti quanti sti adesso giocatori che mettono le varie fascette, sta roba, non lo anche nel paese del muco? Sì, nel senso, mi sembra una cosa ridicola, insomma, pure qui, insomma, il Qatar, il paese del muco? E c'è, è il Qatar. Oddio, ah, vabbè, scusa, ah, cioè, oddio mio Dio, oh mio Dio, okay, io pure so, quando l'ho capito, vabbè. Ma no, non ci avete pensato mai? Cioè non vi ha mai fatto guarda, le espressioni, scusate, ma non avete due, ma scusate, è stata, oh mio Dio, non so se te sei accorto anche un certo, non avete mai fatto questa associazione? Cioè io quando sento il Qatar penso sempre a queste persone, cioè, tutte ricoperte di non so, namo dei pezzoni, no? Sì, mettiamo un pezzo, la bandiera del Qatar, c'è uno splatto di muco interrupta. She can attend the interrupter. She's the queen, and he's the one whose neck is in the guillotine. And he says, I'm a match, she can't see. You know she gon' burn down everything. She lost this in a pastime, and I've been burned for the last time. She needs a drink, so she starts shaking. Put a victim till his heart starts breaking. No real tears, cause she don't mean it. This landscape used to be so scenic. And he can make it out if he can dream it. Rising up from the ash, he's a phoenix. I'm a match, she can't see. You know she gon' burn down everything. She lost this in her pastime. And I've been burned for the last time. Sempre io te l'avevo detto, sempre 87.9 e... ci eravamo un attimo fatti trasportare. Sì, ci eravamo un attimo fatti trasportare da... sballavamo noi. Sì, e comunque quello che appunto dicevamo poco fa del Qatar, prima che Giacomo facesse quella battuta infelicissima. Ecco. Ma perché? Ma io non ho capito. Perché te la becchi, dai, basta. Ma io, ma dai, ma puoi essere che sono l'unico che ha fatto questa assonanza? Ma com'è possibile? No, non sei l'unico, già, però, cioè, nel senso, sei l'unico che si è sentita di dirlo. Esatto. Cioè, e di condividerla, sì. Ma perché non è un paese brutto che, cioè, ma vi rendete conto che succede in quel posto, ragazzi? Cioè, io non so se mo, ok, il pallone non ce ne frega niente, vabbè, lo sappiamo, seguiamo il calcio, zero. No, però la cosa preoccupante, però, raga, la cosa preoccupante è che se calcio c'entra che niente, se scelga un posto del genere, insomma, è assurdo. No, che tra l'altro i criteri di attribuzione dei mondiali, insomma, sono una roba da brivido. Cioè, se riusciamo a far finta che non ci sia, che non debba esserci nessun tipo di criterio che riguarda altre cose che non siano strettamente sportive, i diritti umani basilari, cioè, ecco, allora facciamo, non lo so, ma perché non in Corea del Nord, da quelli proprio base. No, perché insomma proprio oggi appunto, perché ne so, cioè, Pyongyang, voglio i mondiali di Pyongyang. Sì, no, perché ricordiamo comunque che proprio ieri mi sembra che è stata la vita una giornalista, no? Sì, no, ma poi tra l'altro ci sono delle limitazioni che riguardano anche, cioè, nel senso, sono situazioni, cose più semplici. Sì, a Istanbul un'italiana è stata arrestata durante una manifestazione non autorizzata, appunto, in Turchia, a Istanbul, sì. E quindi, cioè, nel senso, le situazioni in giro per il mondo ve ne stanno tante, e non si può far finta a livello anche internazionale, questa roba non si dovrebbe far finta, insomma, no, infatti cose. Infatti il, diciamo che no, questi stati dominati dalla teologia, insomma dal fondamentalismo religioso, e comunque che hanno un indirizzo politico strettamente legato agli indirizzi religiosi di riferimento, succedono queste cose, che il mondo come dovrebbe reagire? Quantomeno non dovrebbe farci mondiali, almeno non dovrebbe farci andare, non dovrebbe concentrare in un luogo dove i soldi sono già un qualcosa che sbuca da praticamente lì, insomma. Sì, ma nemmeno, nel senso, ma guarda, nemmeno ci dobbiamo arrivare a parlare dei soldi, cioè, tutto. Voglio dire, cioè, insomma, ma soprattutto appunto durante oggi, durante la settimana che c'è stata, durante gli anni che si vivono, nel senso, no, sotto questo punto di vista c'è manco bisogno di stare a parlare. Poi c'è stato un numero di morti per la costruzione degli, sì, esatto, degli impianti imbarazzante. Sono più il numero di morti, insomma, perché che come al solito per stare dietro a queste maxi opere da costruire in tempi brevissimi, quello che succede che queste cose hanno zero a che fare col calcio in sé, cioè, ecco, poi sempre da non esperti del calcio non ci interessa addentrarci. L'hanno spostato addirittura, cioè, in inverno, perché là sarebbe stato impossibile giocarlo, ecco, insomma, perché di solito si fa ad agosto, se non sbaglio, no? Si fa d'estate il mondiale, che io ricordi, esatto, se fa d'estate, no? Se mangia l'anguria, esatto, bravissimo. Ma invece l'hanno spostato perché là sarebbe stato ingiocabile, quindi nel senso sta roba è più proprio una voglia di appropriazione di mondiali, spazi, cioè, nel senso, se ne vedono di tutti quanti i colori, se ne vedono e se ne sentono tutti quanti i colori, a partire da il copricapo, cioè, nel senso, non lo so, ma sì, le magliette vietate anche semplicemente con lo slogan delle rivolte iraniane, cioè, insomma, stiamo assistendo a delle limitazioni fatte alla luce del sole e in mondovisione, che la regia internazionale dei mondiali cerca buffamente e goffamente di coprire, quindi, insomma, è una manifestazione dell'ipocrisia che fa il paio con quello che ci dicevano le compagne, insomma, è la stessa matrice, è sempre la stessa matrice che muove le stesse chiavi, quindi, ecco, noi parlare del mondiale magari non lo so, per chi fa il tifo tu, Simo? Quale tifo? Ma no, non si trattava di fare il tifo, si trattava di fare l'analisi su un paese che in realtà, ma lo so, ma viola ogni diritto, il Qatar, il paese del muco. Quindi, ridaglie. Ok. Vabbè, dai, ci andiamo a sentire un'altra canzone. Dici che ci denunciano i Qatarini. Si chiamano Qatarini, sai? I Qatarini, il governo Qatariota. Il governo Qatariota. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Every mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, I'm running wild. Thank you. lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always go, don't know where. Always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, all alone, all alone. Applausi che sia. Applausi, applausi, applausi. Gruppone, è un gruppone. Scroscianti applausi. Devo sa dire. Quanto manca? No, quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Beh, sai quante volte lo ripetevo? Quanto manca quando andavamo in viaggio? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Quanto manca? Siamo quasi arrivati. Era proprio quel bambino lì, proprio quel bambino lì. Adesso siamo arrivati. Comunque, ci mandano le foto del corteo. Come al solito, insomma, corteo molto partecipato qua a Roma. Che bello, sì, abbiamo visto pure dei vecchi trotskisti, come che erano già. Oh, fantastici! Sinistra classe rivoluzione, se non sbaglio. Insomma, pare che arrivino queste i vecchi trotskisti. No, non sono vecchi, però una spezzone di soli uomini. Compagni, soli uomini. Compagni, insomma, una forza di soli uomini, insomma, in questo corteo. Quando si parlava prima, si diceva che bisognerebbe scendere in piazza noi maschi. Sì. Magari farlo di nostro input autonomamente sarebbe in un ancora altro giorno, proprio, ecco, generando un'iniziativa. Come però dire. Io anche qua mi chiedevo una cosa. Non so tempi maturi, dici, non lo so. Anche come qua no? No, non so tempi sì. maturi, non lo so. Però no, sì, no, no so tempi ormai sono fragili i tempi, non è che sono maturi, esatto. Sono andati oltre, sì, il vabbè, maturo, certo, proprio, cioè, maturi nel senso proprio spappolati, cioè, a terra i tempi. Sì, però ok, questo è chiaro. Cioè, nel senso, fa parte proprio di tutto quanto il discorso che abbiamo provato a oggi, no? Dico, che fai in questo senso? Fai? Certo, in questo senso come si fa? Chiami un corteo di soli maschi? Chiami una manifestazione i maschi? Certo, assolutamente. Ah, certo. E quindi mi sembra come ovvio. Funziona? Mi sembra ovvio. È una delle tante cose che si potrebbero fare. Insomma, l'importante è che cominciamo a fare qualcosa. Ma sono cose ma che tu te le immagini. Ma sono cose che si costruiscono. No, probabilmente da qualche parte ci pure starà un'assemblea di soli uomini. Che se non c'è sta, comunque è una vergogna, appunto. Cioè, nel senso, arrivati a questo punto, sicuramente ci vogliono delle assemblee di soli uomini che se casano tra di loro. Innanzitutto mettere Parlamento. Degli obiettivi. Parlamento no. Assemblee di soli uomini che si interfacciano con la lotta transfemminista. No? Lo stadio, E poi, nel senso, la manifestazione nasce dopo venendo di anni probabilmente di lavoro. Per questo dico, il tempo è maturo. Per quello dicevo, cioè, se uno deve parlare d'avanguardia sulle lotte e sui nel senso, non lo so, per quello questo maneggia. Comunque 0640917750, mancano 20 minuti, ci andiamo a sentire un altro po' di musica nel frattempo. Se volete chiamare, potete chiamare, cioè, pure ricordiamo il gruppo Telegram. Però sicuramente, e giustamente ci dicono che il corteo è pieno di uomini, diciamo che questo spezzone è caratterizzato perché i compagni ci hanno smesso di cacciarci, perché anni fa giustamente c'era questa cosa qua, proprio per far capire, cioè, lo dicevamo, era un audio del 2007 quello che i compagni mandavano stamattina, no? 2007. Sì, cioè, nel senso, sembrava ieri, no? Non era, appunto, una questione di oggi, non era, no? Infatti, e non lo è ancora adesso. Una questione di tigna, non è tigna, è proprio un invito a lottare autonomamente in quanto, parte del problema. Cioè, nel senso, non è come nei film delle spie, devi distruggere dall'interno tu, perché loro non ne fanno parte, come te, capito? Cioè, nel senso, sono due ruoli diversi quelli che vanno svolti, e quindi anche la lotta va svolta probabilmente. Non lo ma so. certo, non lo so, avevamo detto che non è particolare, comunque, esatto, così lo vedi, è un attimo, tu parli dei vecchi trotskisti che per un attimo vuoi fare una battuta e ti ritrovi in discorsi giganteschi. Quindi 16:40 e 42, non lo so, che canzone ci vorremmo andare a sentire? L'internazionale dici tu? A questo punto hai detto già troppe volte la parola trotskista, quindi per favore metti riparo, dai. Dai, non fare così, non dai. Fare così. Non lo so, continuiamo un po' di no, dai, andiamo a sentire questa, che non lo so, forse l'avevamo già passata, però vabbè, mi piaceva, quindi la rimetto. settimana scorsa l'avevamo sentita. Sempre onda rossa, sempre io te l'avevo detto. Eh sì, eccoci qua. Dunque, sempre qui, esatto. Sì, ci andiamo sì. A sentire un altro audio da dalla piazza che prontamente ci mandano le compagne. E vediamo se stavolta parte il volume giusto. compagne della Casa delle Donne di Bologna, e allora insomma chiediamo, e ci fa molto piacere vedervi qui a Roma, e allora chiediamo a voi insomma come vi sembra questa manifestazione e come ci state. A noi veniamo tutti gli anni a questo corteo, ma da molti anni, anche prima di Non Una di Meno, perché pensiamo che sia veramente importante stare in piazza tutte insieme, tanti femminismi insieme, e noi siamo come centro antiviolenza, e oltre a questa manifestazione facciamo tantissime iniziative di sensibilizzazione e di politica nella città. Non siamo solo un centro di accoglienza, non una casa rifugio, ma siamo veramente un centro attivo sul territorio che vuole cambiare la cultura. E chiaramente la manifestazione è importante perché dà visibilità nazionale e penso che deve essere unita di tutti i femminismi, non è solo una manifestazione di un gruppo ma di tutti i gruppi, e noi come gruppo femminista ci siamo e ci siamo sempre state e l'abbiamo anche organizzato tanti anni fa. E però a livello locale è importante lavorare tutto l'anno sul cambiamento di cultura maschilista profondamente radicata anche a Bologna, nonostante che noi abbiamo tanti privilegi, abbiamo un centro che funziona benissimo, tanti finanziamenti, però la cultura è radicata, è millenaria, cultura patriarcale all'interno delle istituzioni. Quest'anno lavoriamo molto sulla vittimizzazione secondaria, vogliamo scardinare questo maltrattamento che le donne subiscono quando chiedono aiuto, che sono sfruttate e maltrattate una seconda volta. Poi ci sono altre tante tematiche, lavoriamo sull'intersezionalità, trovare risposte differenziate a seconda delle donne che si rivolgono ai nostri centri, quindi risposte adeguate ai loro bisogni a seconda dei bisogni che hanno. Grazie. The store. Such things as joy and happiness is fleeting while you're bleeding on the floor. I take a beating, smile with a greeting, life has a meaning or quite misleading, pipe what I'm dreaming, fight to the ceiling more. Think I need a new body cause I bodied all these demons but it took us. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, stiamo per chiudere, diciamo. Siamo quasi la puntata di oggi, l'avevo detto. Vabbè, non lo so se oggi abbiamo detto le solite scemenze più... Ma sicuramente sì, e infatti credo che sia, insomma, come al solito ci siamo attestati alla solita soglia, proprio il classico, insomma, no? Che vabbè, dici? Sì, no, no, non lo so. È stato comunque bello poter dare, no? Il gruppo Telegram, vediamo un po' il gruppo Telegram. Vediamo un po' se è successo qualcosa nel gruppo Telegram. Gruppo Telegram, 21. Non lo so, il gruppo Telegram, devo dire che secondo me va spinto. Allora, c'è da dire questa cosa. Ragazzi, c'è Faccia Libro che ci sta boicottando. Perché? Facebook ci boicotta. Ragazzi, cioè, questa cosa è testata. Strano. Cioè, ogni volta che noi mettiamo un post, io te l'avevo detto, o che riguarda un pochettino queste cose, il post finisce in fondo all'algoritmo. Io vado a controllare perché sono un piccioso. Ma te l'ho visto, Boris? Lo sai qual è la soluzione per battere l'algoritmo, Giacomo? Non sono d'accordo con la soluzione che percorre Boris. Mi dispiace, sono integralista anche lui. Dai, là. Spam. No, come si dice? Non è spam, è un. No, quello se via gli aci. No, non è spam, ma com'è che si dice? Uno spoiler. Uno spoiler. Non si fa. Basta. E dai, niente. Ma è vero, non si fa lo spoiler. Fa. No, vabbè, ma non, ma poi credo che ormai l'abbiano visto tutti. No, no, non lo so. Vabbè, in ogni caso, se non l'avete visto, piratatelo. Piratatelo. Piratatelo in continuazione. E tuttavia. Noi vi salutiamo. Sì, dai. Andiamo a sentire un'altra canzone. Se qualcuno ci vuole chiamare ancora, Sì, se qualcuno ci manda qualche altra cosa, noi siamo qua, però insomma dai, ci andiamo a sentire altre canzoni. Esatto, allora dobbiamo ricordare un po' di cose prima di chiudere, magari. Sì. Poi chiudiamo con la canzone, che dici? No, ci risentiamo dopo. Ci risentiamo dopo. Va sì, bene, sì, va bene. Pezzone. Ma che faccio? Mettilo ormai sto pezzo, hai detto, mettilo. Ormai fai finte. No, nel senso. Dici. Paragavuti, dici. No, niente. Sì. Ok. Reggaeville. Rock top come! What do you say for the Scotolites? Rastafari! 50th anniversary! Tonight, the Queen of Ska is here. Please make some noise for Doreen Sheffer. My boy Lampa. My boy. Ci sentiamo la settimana prossima e, ma non prima di appunto ricordare che e più tardi c'è Salpinazza su per giù tra un'oretta. Nel frattempo se c'è da mandare qualche altra corrispondenza, insomma noi siamo qua in regia o dall'altra parte, quindi ci stiamo e, per ricordare appunto che dopo c'è Salpinazza, poi Disaccordo e poi Rotation, poi musica macchina. E tra l'altro Musica Macchina ringraziamo per i visual che ci ha fatto a noi, per il sì, visual. Anche per i rumoretti, infatti oggi non l'ho messo nemmeno uno, lo devo rimettere. Mamma mia, che vergogna. Però ecco, tanti grazie e tanti love. Sì, poi ricordiamo che è uscita Scarcerando, quindi potete cominciare diciamocelo, che sia. Ancora non è uscita, cioè, nel senso sta cominciando ad arrivare, però potete cominciare a manifestare il vostro interesse, sì, a scriverci, diciamo. Perché a breve comunque possiamo cominciare a fare anche le spedizioni. Ci siamo, diciamo. Stamoce. Bellissima. Ci sono arrivate le prime 10 copie in radio. Tac. Ci sono. Ecco, vediamo un po'. Abbiamo l'antecopia. Ecco. Guarda, la copia prima, in anteprima. Che meraviglia. Quaderno e agenda. Le prime copie mai viste. Spettacolo. Della le prime 10. Le prime 10. Madonna. Le prime 10 in verranno alla modica cifra di 12 euro come al solito, insomma. 12 euro e 50. E 50 perché 50 ce li zottiamo noi. Ma manco per niente. Quello è che se voi ci chiamate allo 06491750 con il codice Scarceranda Itlad, avete la possibilità di pagare la scarceranda a 12,50 euro anziché 12 euro, sì. Ragazzi, di così non possiamo fare. Vabbè, questo qua, a parte gli scherzi, insomma, fa parte della scarceranda Itlad, 12,50 euro della nostra scemenza che c'avamo e ci siamo. Però insomma, invece ricordiamo appunto che oltre a scarceranda c'è il 31 sotto le Bibbia, che la radio, sì, insieme a tutta quanta la città di Roma, insomma, chiama la Roma solidale, fa, sì, questa lenticchiata, questo presidio con e ricordiamo soprattutto giovedì prossimo alle 9:30 fuori al Tribunale di Sorveglianza a Roma, perché c'è la disamina per il 41 bis dato Alfredo, quindi per la sorveglianza e quindi vediamo. Biascica. Ah, okay, è vero, scusate, comunque ho retto 2 ore con un raffreddore estremo. Quindi dai, vabbè. E poi ci manca quando? La Perirror. E poi la Perirror, che sì, probabilmente faremo una cosa il 17 dicembre. Magari la prepariamo bene. Comunque, cosettina bella, carina. Ci sarà una cosa con Scarceranda, sicuramente. La SNIA. Sicuramente l'appuntamento sarà incentrato su questa roba qua. Esatto, quindi diciamo che siamo noi con la Perirror, ci accogliamo al fatto che c'è Scarceranda e ci godiamo questa bella, bella cosa. Sì, dai, decisamente sì. Vi salutiamo con questa canzone. Un abbraccio come al solito a chi ci ascolta privato e privato della libertà. E dai, forte. Dai. And what do I see? The forest and the sea. Happiness and sorrow. I feel like I see for the first time through my window. And what do I see? The forest and the sea. Happiness and sorrow. Do I see the forest and the sea? Happiness and sorrow. 'Cause I feel like I sit for it the first time through my window. And what do I see? The forest and the sea. Happiness and sorrow. 'Cause I feel like I see for it the first time. The world is spinning around faster than ever. My feet are Jaja will guide us. We've got to break down the walls down in a Babylon that separate us. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. It's time we take ourselves down in a Babylon. I know where we're going. Instead of playing back down in a Babylon, while our problems are growing, we've got to break down the walls down in a Babylon that separate us. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. We need some action now down in a Babylon. And the sooner is the better. Come and put your auntie down, down in a Babylon. And live it forever. Come and put your auntie down, down in a Babylon. And make we love it forever. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. We've got to break down the walls that surround us. Break down the walls that separate us. Break down the walls that surround us. Break down the walls that seem to divide us. Break down the walls down in a Babylon. And then a Jaja will guide us. Solidarity in a Babylon, it shall be our motto. But when the right time comes down in a Babylon, and this battle will be hotter. Cause solidarity down in a Babylon, it shall be our motto. But when the right time comes down in a Babylon, this battle will be hotter. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to separate us. We've got to break down the walls down in a Babylon, the walls that surround us. We've got to break